Stai ascoltando Radio Forte. E questo è 100 Celle Avengers. Bentornati su Radio Forte, puntata numero 13 di 100 Celle Avengers. Bentrovati, Devices. Grazie, davvero e da Alexa. Oggi è il 18 febbraio. Grazie, Alexa. Se vogliamo portarci ulteriormente sfiga, possiamo anche dire che ringraziamo la trasmissione Benessere che ci ha preceduto, giusto? Perché oggi è giovedì, no? Non capisco. Se così non fosse e vi foste collegati alla simpatica replica del venerdì, il nostro saluto andrebbe invece a Waves, in onda fino alle 12. Madonna. E per finire la rubrica Macchina del Tempo, se stai ascoltando la replica della domenica, allora sei un fedelissimo di The Clan. E noi, che salutiamo DJ Nervo, siamo la variabile impazzita che ti terrà compagnia dalle 2 alle 3. non è molto chiaro. E forse è proprio quello che volevamo, caro Iron Man. Dare informazione sulle nostre repliche, sì, ma generare anche un po' di caos, tale che se poi una volta non usciamo di giovedì, una volta, faccio per dire un esempio, la gente magari non se ne accorge. Vuoi dire come la scorsa puntata? Esattamente, amico mio. È importante fidelizzare, sì, ma anche avere dei piani B. Insomma, a prescindere dallo spazio-tempo in cui stai ascoltando, caro ascoltatore, sappi che oggi ti parliamo di e di tutto ciò che ne è derivato. Un altro lungo viaggio, sei pronto a cominciare, Iron Man? Nel senso di... Non certo quello che hai capito tu. Dai, famo i seri, su. Oggi abbiamo anche ospiti. Ah sì? Certo, 100 Celle Avengers approfondisce. Si interroga. Mi interroga. Sì, Alexa, ma tu le leggi su Wikipedia le cose, senza offesa, eh? C'è un team di redattori qui che levate. Andiamo come sempre con ordine. E cioè? E cioè a pescare le origini, esattamente chi è stato il primo a parlarne, sviluppando da lì la nostra consueta panoramica. Ma non voglio spoilerarvi troppo, intanto un po' di musica dal mondo degli scartati, ricordiamolo, la rubrica dei brani troppo difficili per la scuola di musica. Questa è Cory Wong, dei Wolfpack. E solite pippe. Ieri sera, quelle firme che te cambiano la vita. È tutto pronto. 1, 4, 3, 6, 7, 5, 8, 2, 9. L'enigma è finalmente risolto. Ibarra Don Chisciotte 1780. Tutti e quattro i volumi. Ci sono libri pericolosi. Ci sono stati uomini bruciati vivi o sventrati per avere solo sbirciato quello a cui lei sta per assistere. È una finestra sul passato. La vicenda si infittisce, Iron Man, non solo quello che la sta segno della P2, che per fare un parallelo in Italia ha agito nell'ombra, no? Fino alla seconda metà degli anni Ottanta, cioè il link ora è chiaro, e anche a casa si staranno chiedendo se non fosse qualcosa di esplorato già prima. Ah sì? Solo chi ha gli occhi per sentire, amici di Radio Forte, ha anche poi le orecchie per vedere. E ho detto tutto. Qui mi fermo perché troppi input rischiano di non essere gestibili. Fatevelo dire da... Da un fonico? Da un profano, Iron, un profano. Infatti, come ti avevo annunciato, non sarò solo io a condurre un argomento così complesso. Più avanti, nella puntata, ci collegheremo con un vero esperto in materia. La prima telefonata di Centocelle Avengers. Sei emozionato, Iron Man? Questa è Forest, dei Cure. costumi come Big Jim, radio forte, click on player solo quando gioco e passo di notte, cento celle Ranger style. Bentornati su Radio Forte, 100 celle Avengers, e di mistero in mistero ci avventuriamo nella Mesopotamia. Mesopotamia. Sigla. Bella, bella la sigla, complimenti, bravi. In effetti era per introdurre il nostro drone DR100 che anche oggi torna vittorioso dalla scuola di musica con un sacco di nuove info segrete sui laboratori di musica d'insieme. Incredibile. Allora vai, piccolo droide. Drone spia. Sei la nostra ultima speranza. Avventurati nei meandri del Forte Prenestino e dacci notizie spoiler sulla preparazione degli allievi. Oh Virgin, ma quindi sta settimana di che parlerai in rubrica? Che ha fatto Paul McCartney? Sì, Paul McCartney, quello vero o quello vinto? Perché te lo sai che è morto nel 66, no? Come Pippo Franco. Sta settimana puntata scomoda, regà, tutti sintonizzati, mi raccomando. Ma giuro. Sì, sì, qua mettemi i puntini sulle i che proprio... Sì, regà, pure io in realtà ho letto che Pippo Franco è morto e c'ha il sosia. Che dovete uscire? No, ma va che questo non sta a capì. Bene, dalla Mesopotamia mi sembra tutto. Bisogna dire che ce la stanno mettendo tutta, eh? Sì. Si notano settimana dopo settimana i miglioramenti, eh? Potremmo lasciar loro un po' di privacy. Ascoltiamo intanto un po' di commenti che sono arrivati in diretta sul canale Telegram t.me/radioforte. Ah sì? Magari ne escono delle domande da porre all'esperto. Ascoltiamo. Sono perfettamente d'accordo con voi, non avrei potuto spiegarlo meglio. Questa puntata è così avvincente. Non pensavo avreste avuto il coraggio di parlare di GFG lui. Complimenti, ragazzi. Nel 2004 ho scritto un libro sull'argomento. Lo trovate in libreria insieme a una bibliografia completa per approfondire. Ah, vi siete dati al giornalismo. Bella puntata, bella. Approfondimenti, reportage e un'ottima disamina. Come il nero, sta bene, su tutto. Ne parlavamo ai tempi della scuola pitagorica, poi Archimede lo studiò per anni e non risolse mai il nocciolo della questione. You might.

detectives. Watching the detectives. Watching the detectives. Watching the detectives. Watching the detectives. Watching the detectives. Watching the detectives. Scusate, la macchinetta. Bentornati su Radio Forte, 100 Celle Avengers. È il momento che molti aspettavano, quello in cui colleghiamo la nostra puntata ai loschi meandri di Liverpool. E ci colleghiamo con la nostra Mystery Virgi, che finalmente ha trovato un nome, si chiamerà... Balniette. Bentornati, bentornati. Te ci provi con tutti i mezzucci, eh? Sempre a ride, sempre a scherzare. Ma qua tocca, sta attenti. Una parola di troppo, la puntata prossima non mi ci fanno arrivare, eh? Vengono a salvarci, Iron Man. Sconsiderato! Noi del PID ti lasceremo al tuo triste destino. PID? Ma che stai dentro una setta, Virgi? PID, Police Dead. Ma che te credevi che la morte di Paul McCartney potesse spegnere il fuoco ardente nel cuore dei nostri eroi? È morto Paul McCartney! Certo, quello vero, nel 1966. Oddio, stai a parlare di quel complotto. Parlane con rispetto, il senso di colpa ha divorato gli altri tre per aver coperto l'accaduto e averlo sostituito con un sosia. Oh, bravo! Forte sto sosia, comunque. È pieno di indizi. John lo ha detto in tutti i modi. Basta ascoltare ed osservare con attenzione. Dimmi un po', secondo te perché hanno smesso di fare concerti nel 66? Boh, troppi strilli dei fans? Quella è la versione ufficiale, su... No, hanno dovuto dare il tempo a William Campbell di riprendersi dopo la plastica facciale, ovvio. Poi bisognava insegnargli a suonare, a cantare, a imitare le sue movenze. Sì, a fargli far caffè buono come lo faceva lui. Ma scusa, ma tu davvero credi che il tuo bassista preferito, quello che ha scritto canzoni meravigliose come Blackbird, sia un impostore, messo a capeggiare un gruppo dagli altri tre componenti? Vedo con piacere che hai studiato, ma non ti permetterò di usare la conoscenza che io ti ho impartito contro di me. Sai ancora troppo poco. Tutto iniziò nel 69, quando una radio locale trasmise una telefonata in cui si teorizzava la morte di Paul nel 66 per un incidente stradale. A telefonare fu il nostro eroe e guida spirituale, colui che per primo raccolse tutti gli indizi lasciati negli album dei Beatles, Tom. Ma Tom chi? Dove sono le fonti? Tom è sempre voluto rimanere anonimo e non mi stupisce dato il pericolo che corriamo. Tom fu il precursore di una febbre che portò tantissimi studenti a comprare tutti gli album dei Beatles, anche quelli antecedenti all'incidente. Per aiutare le indagini, no? Per aiutare le indagini? Oh, Virgi. E solo sulle copertine non sai quanto c'è da parlare. Iniziamo con Yesterday and Today. La copertina ritraeva i Beatles ricoperti di pezzi di carne e teste di bambole, chiaramente un'allusione al truculento incidente che fu subito mandata fuori produzione dai poteri forti per coprire tutto. La sto vedendo adesso, Virgi, è effettivamente un po' fortina per il periodo, eh? E sulla copertina di Sgt. Pepper's non noti niente? Quella corona di fiori a terra, proprio dove guardano le quattro statue di cera dei Beatles vestite a lutto. Non ti ricorda niente? Non ti sembra il nostro basso? Ma vostro di chi? Oddio, è vero, t'hanno pure regalato Lofner. Ed è pure mancino! E adesso seguimi bene. Se prendi la copertina dell'album, appoggi uno specchio rivolto verso l'alto sulla metà della scritta Lonely Hearts, lì sulla cassa al centro della scena. E poi fai una giravolta e falla pure un'altra volta. Taci! Appariranno le frasi 1-1-1, cioè i tre superstiti, e He Die. e l'autore del disegno sulla cassa è sconosciuto. C'è bisogno di aggiungere altro? Sì, e infatti John te lo dice chiaramente in A Day in the Life, quando nella prima parte della canzone ti racconta l'incidente e alla fine, a chiusura dell'album, inserisce una traccia fantasma che recita chiaramente: non c'era altra soluzione. Tiè, senti qua. Virgi, sei più inquietante del solito. E poi, sempre parlando di specchi, prova a guardarci dentro la copertina di Magical Mystery Tour. Non lo vedi? La scritta Beatles è o non è un numero di telefono? E se lo avessi chiamato negli anni 60, pare che ti avrebbe risposto una voce che ti diceva: ti stai avvicinando. Pare. Mo ti faccio vedere st'altra cosa. La vedi sta foto dentro il White Album? È Paul McCartney. Sta bene gli baffetti. E ci sei cascato pure tu. No, questo è William Campbell, il sosia. Ma non lo vedi che lo zigomo destro è diverso dallo zigomo destro di Paul dei primi anni? Mi sa che c'è bisogno di un po' di riposo. Sicura che non vuoi un goccio di vino? Ed è qua che John, con tutto il suo dolore, ha rivelato più palesemente il suo accaduto. Ascoltando Revolution Number 9 possiamo sentire rumori di frenate, una voce che grida "Get me out!", delle urla, il fuoco. Insomma, senti. Qua altro che vino, Virgi, chiamo un esorcista, eh? Va bene, scusa, abbiamo lo stomaco debole qui, ho capito, chiudo. Chiudo come hanno chiuso loro, con la copertina di Abbey Road, che rappresenta chiaramente una cerimonia funebre. Vedi? John, vestito di bianco, deve celebrare l'amico insieme a Ringo, vestito di nero, il portatore della bara in cui c'è Paul, l'unico a piedi scalzi e con una sigaretta in mano. E a chiudere la processione George, vestito di jeans, pronto per tumulare l'amico. Adesso hai capito che c'è sta dietro? Virgi, io ho capito che non te lo dovevo chiedere di fa sta rubrica. T'ho sempre considerata una persona razionale, ma nemmeno di fronte al tuo Beatles preferito riesci a essere lucida. Poi a me sta cosa che li chiami tutti per nome come amici ancora non me va giù, eh? E chi ha mai detto che preferivo quello vero? We're singing in the dark of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. We're singing in the dark of night. Take these sunken eyes and learn to see your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Allora, l'avevamo annunciato, abbiamo la prima telefonata della storia di 100 Celle Avengers, perché effettivamente Ubi Maior, e abbiamo in collegamento... Enzo Castel Giudice, buonasera a tutti gli ascoltatori. Il grande, al quale subito, ci senti intanto? Abbiamo fatto le prove prima, il collegamento sì, sta funzionando. Ti sento benissimo. Molto bene. Riprendendo un po' le redini del discorso, ecco, ti senti di darci il tuo punto di vista? Non ti dico di fare lo spiegone, ecco, però facci capire un po' meglio quello che io con ignoranza forse ho esposto in maniera superficiale, vogliamo dire. Prego. Sì, volendo essere organici, volendo organizzare il racconto, possiamo parlare di una situazione che si è cominciata a delineare da quando... Ecco. Mi sa che il collegamento ha qualche problema, Iron Man, se puoi verificare. Comunque siamo in diretta, quindi questo è quello che può succedere quando... questo è il famoso bello della diretta, cose che possono succedere. Siamo comunque tutti qui sul... siamo comunque tutti qui sulle spine per sentire... che? Che? Sono arrivate lamentele sul canale Telegram. Iron Man richiede la tua presenza sul ponte di comando. Ponte di comando? Vabbè, vabbè, scendo, scendo. Oh, che vuoi? È finita. Se ne sono accorti. Di cosa? Di che stai parlando? Iron Man mi ha interrotto la trasmissione sul più bello. Stavamo parlando del... Smettila. È finita, ti dico. Passo al piano B. Cazzo, ci hanno scoperto. Aspetta, Iron Man, forse a me... Io ti vedo. Tu che ascolti Radio Forte e pensi che streaming di merda salta sempre. Ti sei chiesto se non sei solo tu a sentire male, perché c'è qualcosa in te che non va. Io posso curarti. Io... Oh, basta, ma che sei matto? Così spaventi la gente. Forse l'argomento odierno non bastava a turbare i nostri ascoltatori, Iron Man? Ora basta! E vabbè, non ce l'avevamo un argomento, sei contento? Eravamo tutti provati dalla puntata sui musical, avevamo bisogno di rifiatare. E ce la stavamo facendo benissimo, se Mister Onesto non ci rovinava tutto. Chi? Tu, uomo de latta eticamente perfetto. Potevamo portare a casa ancora un paio di blocchi, ma lui no. Deve drammatizzare lui. È finita. Ora capisco come dovevano sentirsi gli sceneggiatori di Flash Forward. Flash cosa? Appunto, non lo conosci? Un floppone. Ascoltami bene, era il 2009. Ricominci. No, no, aspetta, stavolta è una cosa vera. Cioè, vera, insomma. Ascolta qui la trama di Flash Forward. Il 6 ottobre 2009, tutte le persone in ogni angolo del mondo perdono i sensi per 2 minuti e 17 secondi. In questo periodo di tempo, ognuno di loro vede il proprio futuro in una premonizione. Un flash forward, appunto. 2 minuti e 17 secondi del 29 aprile 2010. O del 30 aprile, a seconda del fuso orario. Capito? Già intrippato così. E quindi partono una serie di storie parallele fra il protagonista a Los Angeles, l'agente federale Mark Benford, che indaga sul mosaico di ricordi di tutti quanti. Ci sta quella che sogna di morire, ci sta quella che sogna di salvarsi. Ti si crea un dedalo, un labirinto di storie parallele come al solito, tutte caratterizzate da questo cosone che a un certo punto si sono tutti addormiti e hanno sognato il futuro. C'è il misterioso uomo dotato di intelligenza sorprendente, ci sono tutti gli elementi per una proficua serie TV. E io dico fico, intrigante, non vedo l'ora che esca la prossima puntata, ma oh, quanta carne al fuoco. Chissà cosa inventeranno mai. Cosa? Mai, niente, mai. Capisci? Niente, serie finita. Non lo sapevano manco loro che volevano fa. Però ormai erano partiti e niente. Riesco quasi a visualizzare l'ultimo brainstorming di questi geni del male prima di confessare al produttore che aveva buttato i soldi, perché il cosone in realtà non c'era. Senti, diciamoli che hai avuto problemi e... Ah, ti ho detto di stare tranquillo. Tu, lascia parlare. Ma è impossibile che... Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Il signor Meyer vi sta aspettando. Prego, in fondo al corridoio. E in bocca al lupo. Grazie, crepi. Smettila. Controllo. Fai un bel respiro. Avanti! Signor Meyer, siamo... Ecco i miei geni. Venite, ragazzi. Ah, accomodatevi, gradite un whisky, un sigaro, sì, non so, cos'altro. Solo il meglio, guarda, per i miei pupilli. Lei esagera, signor Meyer. Io esagero? Quello che scrivete voi è esagerato. Come vi vengono queste idee? Ma io l'avevo detto che siete un'avanguardia. Mia figlia non parla d'altro. Flash forward. Devo ammettere che anche io, sì, me sono un po' appassionato, eh. Si può dire che non ci ho dormito. Forse è arrivato il momento di svelarmi il resto del piano, no? Volete accontentarmi? E cioè?

sono disoccupato, diciamo che sto studiando, non sono un delinquente, diciamo che mi arrangio, diciamo un sacco di cazzate. Non guardare Devilman, diventi violento, non leggere Spider-Man, diventi violento, non ascoltare Method Man, diventi violento. Figurati cos'era stare un giorno in Parlamento. I politici no, no, non sono più quelli di una volta. Le donne no, no, no, non sono più quelle di una volta. Io no, no, no, no, non sono più quello di una volta. Solo la retorica è rimasta la stessa. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Barefoot, she smiled, led without looking, and tumbled into the sand. The water was freezing, she spent a month sneezing, but say she will do it again. Stai ascoltando Radio Forte e questo è 100 Celle Avengers.